Va da sé che, prevedendo i commenti che l'uno o l'altro atteggiamento non avrebbe mancato di provocare, Madame de Guermantes provava altrettanto piacere a presentarsi ad una festa dove nessuno osava contare sulla sua presenza, quanto a restarsene a casa o a passare la serata col marito a teatro, la sera di una festa dove andavano tutti, oppure, quando si pensava che avrebbe eclissato i più bei diamanti con un diadema storico, ad arrivare senza un solo gioiello e vestita in tutt'altro modo rispetto all'abbigliamento che, a torto, veniva considerato di rigore. Sebbene fosse anti-dreyfusista, pur essendo convinta dell'innocenza di Dreyfus, così come passava la vita nel gran mondo, pur credendo soltanto nelle idee, aveva suscitato un'enorme sensazione a una serata dalla principessa di Ligne, prima restando seduta quando tutte le signore si erano alzate all'ingresso del generale Mercier, e poi alzandosi e chiedendo ostentatamente la sua carrozza, quando un oratore nazionalista aveva attaccato una conferenza mostrando, con tale gesto, di ritenere che una riunione mondana non fosse fatta per parlare di politica. Tutte le teste si erano girate verso di lei quando aveva abbandonato un concerto del Venerdì Santo perché, quantunque voltariana, trovava indecente che si mettesse in scena il Cristo. Si sa cosa significhi, anche per i più grandi mondani, il momento dell'anno in cui cominciano le feste. Basti dire che la marchesa d'Amoncourt, la quale per bisogno di parlare, mania psicologica e mancanza di sensibilità, finiva spesso col dire delle sciocchezze, aveva potuto rispondere a chi le faceva le condoglianze per la morte di suo padre, signor di Montmorency: «È ancora più triste, forse, che un simile dolore capiti in un momento in cui sulla specchiera ci sono centinaia di inviti». Ebbene, in quel momento dell'anno, se si invitava a pranzo la duchessa di Guermantes, accelerando i tempi perché non prendesse altri impegni, lei rifiutava in nome della sola ragione che a un mondano non sarebbe mai venuta in mente. Stava per andare in crociera a visitare i fiordi della Norvegia che li interessavano. Le persone di mondo ne rimasero stupefatte e, senza certo pensare di imitarla, trassero tuttavia dal gesto della duchessa quel genere di sollievo che si prova in Kant quando, dopo la più rigorosa dimostrazione del determinismo, si scopre che al di sopra del mondo della necessità c'è quello della libertà. Ogni invenzione inaspettata crea un'eccitazione della mente, anche in coloro che non sanno approfittarne. Quella della navigazione a vapore era poca cosa rispetto all'idea di sfruttare la navigazione a vapore durante il periodo sedentario della saison. Che si potesse volontariamente rinunciare a 100 pranzi o colazioni, al doppio di tè, al triplo di serate, ai più brillanti lunedì dell'opera e ai martedì dei français per andare a visitare i fiordi della Norvegia, non parve ai Courvoisier più spiegabile di 20.000 leghe sotto i mari, ma comunicò loro la stessa sensazione di indipendenza e di fascino. Così non passava giorno in cui non si sentisse dire non solo «Conoscete l'ultima battuta di Orian?», ma anche «La sapete l'ultima di Orian?» e dell'ultima di Orian, come dell'ultima battuta di Orian, si ripeteva «È proprio da lei! È proprio stile Orian!» E stile Orian al 100%. L'ultima di Orian era, per esempio, che dovendo rispondere a nome di una società patriottica al cardinale X, vescovo di Mâcon, che il signor di Guermantes, quando parlava di lui, chiamava abitualmente il signor di Mâcon perché gli sembrava che facesse vecchia Francia, mentre ciascuno cercava di immaginare il tenore della lettera e tutti si dicevano certi dell'attacco, eminenza o monsignore, ma erano perplessi riguardo al seguito, la lettera di Orian, per la stupefazione generale, cominciava con «signor cardinale», per via di un antico uso accademico, o con «caro cugino», formula in vigore fra i principi della Chiesa, i Garmante e i Sovrani, che si rivolgevano a Dio per affidare se stessi e gli altri alla sua santa e degna custodia. Perché si parlasse dell'ultima di Orian, era sufficiente che a uno spettacolo dove si era data convegno tutta Parigi e andava in scena una bella commedia, dopo aver cercato invano Madame de Guermantes nei palchi della principessa di Parma, della principessa di Guermantes, di tanti altri che l'avevano invitata, la si scovasse alla fine, sola, vestita di nero, con un semplice cappellino, in una poltrona dove era arrivata per il prologo. «Qui si sente meglio, nel caso di un testo che ne valga la pena», spiegava con scandalo de Courvoisier e rapimento de Guermantes della principessa di Parma, i quali scoprivano, da un momento all'altro, che ascoltare una commedia dall'inizio era un genere più nuovo, una dimostrazione più efficace di originalità e di intelligenza. Non c'era da stupirsene, naturalmente, da parte di Orian, che non arrivare per l'ultimo atto dopo un gran pranzo e un'apparizione a una festa. Tali erano i vari tipi di sorpresa cui la principessa di Parma sapeva di potersi predisporre se rivolgeva a Madame de Guermantes una domanda di carattere letterario mondano, e in considerazione dei quali, durante i pranzi in casa della duchessa, l'altezza non si azzardava ad affrontare il minimo argomento se non con la prudenza inquieta ed estasiata della bagnante che emerge fra due marosi. Fra gli elementi che, introvabili negli altri due o tre salotti situati più o meno sullo stesso piano ai vertici del Faubourg Saint-Germain, che rendevano diverso il salotto della duchessa di Guermantes, così come Leibniz ammette che ciascuna monade, riflettendo l'intero universo, vi aggiunge qualcosa di particolare, uno dei meno simpatici era fornito abitualmente da una o due bellissime donne prive di qualsiasi titolo di legittimazione all'infuori della loro bellezza e dell'uso che ne aveva fatto il signor di Guermantes, e la cui presenza rivelava di colpo, come in altri la presenza di certi quadri inattesi, che in questo salotto il marito della padrona di casa era un fervente stimatore delle grazie femminili. Si assomigliavano un po' tutte, perché il duca aveva la passione delle donne alte, al tempo stesso maestose e disinvolte, una via di mezzo fra la Venere di Milo e la Vittoria di Samotracia. Spesso bionde, più raramente brune, qualche volta rosse come la più recente, che partecipava appunto a quel pranzo ed era quella viscontessa d'Arpajon che egli aveva tanto amata da sollecitarla, per parecchio tempo, a inviargli persino 10 telegrammi al giorno, cosa che infastidiva un po' la duchessa, e da corrispondere con lei, quando si trovava a Guermantes, per mezzo di piccioni viaggiatori, della quale, insomma, era stato a lungo così incapace di fare a meno che, costretto a passare un inverno a Parma, tornava ogni settimana a Parigi facendo 2 giorni di viaggio per vederla. Di solito queste belle comparse erano state sue amanti, ma, come Madame d'Arpajon, non lo erano più, o erano sul punto di non esserlo più. Può anche darsi, tuttavia, che il prestigio esercitato su di loro dalla duchessa e la speranza di essere ricevute nel suo salotto, appartenendo anch'esse ad ambienti molto aristocratici, ma di secondo piano, le avessero spinte a cedere ai desideri del duca più ancora della sua bellezza e della sua generosità. D'altronde, la duchessa non avrebbe opposto una resistenza irriducibile al fatto che le venissero in casa. Sapeva di aver trovato in più di una di loro un'alleata, grazie alla quale aveva ottenuto 1000 cose che desiderava e che il signor di Guermantes rifiutava impietosamente a sua moglie finché non era innamorato di un'altra. Così, quel che spiegava come mai la duchessa le ricevesse solo quando la loro relazione con suo marito era iniziata ormai da parecchio tempo, era piuttosto il fatto che il duca, ogni volta che si era imbarcato in un grande amore, lo aveva classificato come un semplice capriccio, per il quale stimava che un invito nel salotto di sua moglie fosse un compenso eccessivo. Ora gli capitava d'offrirlo per molto meno, per un primo bacio, perché si manifestavano resistenze impreviste o, al contrario, perché non c'era stata alcuna resistenza. In amore, spesso, la gratitudine, il desiderio di far piacere, inducono a dare più di quanto speranza e interesse avevano promesso. Ma a quel punto il mantenimento della promessa veniva intralciato da altre circostanze. In primo luogo, tutte le donne che avevano corrisposto al suo amore e a volte persino quelle che non gli avevano ancora ceduto, erano state via via sequestrate dal signor di Guermantes. Non permetteva che vedessero più nessuno. Passava accanto a loro quasi tutto il suo tempo. Si occupava dell'educazione dei loro figli ai quali, qualche volta, se si deve giudicare col senno di poi, sulla base di certe clamorose somiglianze, gli capitò di dare un fratello o una sorella. In secondo luogo, se all'inizio della vicenda la presentazione a Madame de Guermantes, per nulla prevista dal duca, aveva avuto un influsso decisivo sull'animo dell'amante, lo svolgersi stesso della vicenda aveva modificato il suo punto di vista. Il duca, per lei, non era più soltanto il marito della donna più elegante di Parigi, ma un uomo di cui era innamorata, un uomo spesso che le aveva anche dato il gusto e gli strumenti di una vita più lussuosa, invertendo il precedente ordine d'importanza fra questioni di snobismo e questioni di interesse. A volte, infine, una gelosia plurima nei confronti di Madame de Guermantes si impadroniva delle amanti del duca. Ma era, questo, il caso più raro. D'altronde, quando arrivava finalmente, in un momento di norma in cui la donna era diventata già quasi indifferente al duca, le cui azioni, come quelle di tutti, erano più spesso determinate dalle azioni già compiute che non dal primo movente ormai sparito, quando arrivava finalmente il giorno della presentazione, non di rado accadeva che fosse stata Madame de Guermantes a voler ricevere l'amante, nella quale sperava e aveva bisogno di trovare una preziosa alleata contro quel suo terribile marito. Non si deve credere, peraltro, che, tranne qualche rara volta in casa sua, dove, se la duchessa parlava troppo, egli si lasciava sfuggire parole e soprattutto silenzi da incenerire, che il signor di Guermantes venisse meno, nei confronti della moglie, al rispetto delle cosiddette forme. A non conoscerli ci si poteva benissimo ingannare. Certe volte, in autunno, fra le corse di Deville, le acque, la partenza per Guermantes e le partite di caccia, nelle poche settimane che si trascorrono a Parigi, poiché la duchessa amava il caffè concerto, il duca andava con lei a passarci una serata. Il pubblico notava subito, in una di quelle piccole barcacce scoperte dove si sta solo in due, quell'Ercole in smoking, in Francia si è il vizio di dare a tutto ciò che è più o meno britannico il nome che non ha in Inghilterra, il monocolo all'occhio, un grosso sigaro, dal quale tirava di tanto in tanto una boccata, nella mano grossa ma bella al cui anulare brillava uno zaffiro, lo sguardo abitualmente rivolto alla scena ma, quando lo lasciava cadere sulla platea, dove, peraltro, non conosceva assolutamente nessuno, subito smorzato da un'espressione di dolcezza, di riserbo, di cortesia, di considerazione. Quando una strofetta gli sembrava divertente e non troppo sconcia, il duca si voltava sorridendo verso la moglie, come a farla partecipe, con un segno di intelligenza e di bontà, dell'innocente allegria procuratagli dalla nuova canzone. E gli spettatori potevano pensare che non ci fosse marito migliore di lui, né persona più invidiabile della duchessa. Lei, una donna nella quale il duca non riponeva nessuno degli interessi della sua vita, una donna che non amava, che mai aveva smesso di ingannare. Quando la duchessa si sentiva stanca, vedevano il signor di Guermantes alzarsi, metterle il mantello sulle spalle, attento a evitare che le collane si impigliassero nella fodera e farle strada sino all'uscita con umile e rispettose premure, accolte da lei con la freddezza della donna di mondo che le attribuisce solo alla buona creanza e persino a volte con l'amarezza un po' ironica della moglie disincantata che non ha più illusioni da perdere. Ma, a dispetto di tali apparenze, altra faccia di quella cortesia che ha fatto passare i doveri dalla profondità alla superficie, in un'epoca già declinante ma non ancora esaurita per i suoi superstiti, la vita della duchessa era difficile. Il signor di Guermantes ridiventava generoso, umano, solo per una nuova amante che, per lo più, prendeva le difese della duchessa, alla quale si offriva di nuovo, così, la possibilità di essere generosa con i dipendenti, fare della carità ai poveri e ottenere, magari per se stessa, più tardi una nuova magnifica automobile. Ma dall'irritazione che, di solito, Madame de Guermantes provava ben presto per le persone che le erano troppo sottomesse, le amanti del duca non erano escluse. In breve tempo la duchessa se ne disgustava. Ora, anche in quel momento, la relazione del duca con Madame d'Arpajon stava per finire. Spuntava una nuova amante.